Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Molte notizie di oggi sul fronte europeo, ma partiamo intanto con una buona notizia per i ragazzi italiani. Valerio Pagliarino, 16 anni, studente di un liceo scientifico della provincia di Asti, si è aggiudicato il primo premio della 28esima edizione del concorso Giovani Scienziati della Commissione Europea col progetto LaserVan, una connessione a banda ultralarga laser. In sostanza, il ragazzo italiano ha trovato il modo di aumentare la banda larga con la possibilità di portarla ad esempio in piccoli centri dove oggi ancora non esiste, e dunque premiati i giovani della ricerca italiana. Venendo all'Europa, nuovo assalto alle multinazionali da Bruxelles per facilitazioni fiscali. Dopo il caso Apple in Irlanda, occhi puntati sulla catena americana McDonald's. Secondo il Financial Times, Bruxelles si appresta a chiedere alla multinazionale dei panini mezzo miliardo di imposte non pagate in Lussemburgo. E sempre il Granducato è nel mirino per vantaggi concessi al gruppo energetico francese GDF Suez, per il quale si parla anche in questo caso di un vantaggio anticompetitivo in violazione delle regole. Prima le indiscrezioni, poi la conferma nella consueta conferenza stampa a Bruxelles. The Commission of course investigates cases in which there are breaches of EU state rules, including cases where not all taxpayers are treated. Bruxelles verificherà se le autorità fiscali hanno derogato la legge nazionale nel loro accordo con le aziende, visto che hanno trattato in modo incoerente le transazioni tra filiali, così l'annuncio a Bruxelles. Vertice europeo intanto volati a New York, dove tra poco si apre il vertice sui migranti prima dell'Assemblea generale dell'ONU domani. Non vogliamo lasciare i nostri paesi e lasciare le nostre famiglie e amici. Fateci tornare a casa. È il messaggio disperato che si leva dagli affollati campi profughi agli oltre 135 leader del mondo che si riuniscono a New York per la 71esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al via oggi. Avrà per la prima volta come focus migranti e rifugiati e la necessità di elaborare una risposta internazionale ad una crisi senza precedenti. Ed è anche il messaggio che è risuonato ieri sera la veglia illuminata da candele per ricordare i diritti fondamentali dei bambini che migrano a essere sicuri, ad avere una casa. A questa veglia, nella persona del primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e al summit dell'ONU, l'Europa è presente con una delegazione dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini. Negli ultimi anni il mondo ha sperimentato livelli record di migrazioni e trasferimenti. L'Europa, in particolare, è una delle principali destinazioni. Frontex ha registrato più di 1,8 milioni di attraversamenti illegali nel 2015 e dopo il summit di Bratislava, da cui i leader europei a 27 non sono riusciti ad allinearsi sul nodo migranti, a New York ci sarà anche Matteo Renzi che cercherà sostegno al Migration Compact da aprile sul tavolo di Bruxelles. A New York l'obiettivo però dei membri dell'Assemblea Generale tra sessioni plenarie e tavole rotonde è di adottare in giornata una dichiarazione che conterrà una serie di principi e impegni per la gestione dell'emergenza. La base per arrivare alla firma di un Global Compact entro il 2018. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Malumori in Europa che non si sono spenti dopo il vertice di Bratislava anche sulle questioni economiche, con Roma e Berlino su fronti contrapposti. Quello di cui c'è bisogno è che il governo italiano applichi e porti avanti le riforme strutturali. Incalza oggi Weidmann, presidente della Bundesbank, rispondendo sulla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità sui conti. Ma sulla questione del surplus tedesco, denunciato dal premier italiano, dice l'idea che la Germania possa dare una spinta alla congiuntura europea attraverso un programma di investimenti pubblici è ingenua. E oggi intanto il commissario europeo agli affari economici e monetari Pierre Moscovici riceverà Maurizio Massari, il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea. Allora ci torneremo, nel frattempo invece ci fermiamo qui. Ancora un buon pomeriggio da Anna Migliorati. Vi ricordo, l'Europa vi dà appuntamento come sempre effetto notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.